Nel libro di Raymond Panikkar, Ecosofia, la nuova saggezza, ho trovato molte cose che riguardano Aleph. Anzi, direi che si potrebbe prendere questo libro come introduzione alla visione di Aleph. E parto dall'idea di scienza, così come viene indicata qui da Panikkar. Panikkar fa una critica molto serrata della scienza di oggi. Dice la scienza, vado a vedere, a pagina 21, dice la scienza moderna è perversa, dice Panikkar. È perversa perché ha pervertito anzitutto il senso stesso della parola scienza. Scienza, in greco gnosis, in latino scientia, significa conoscenza piena. La scienza significava sempre questa specie di abbraccio, unione e comunione con la realtà. Quindi è quella capacità dell'essere umano di entrare in contatto pieno con la realtà attraverso il sesto senso. E qual è il sesto senso? Non è nessuno degli altri cinque sensi. È l'intelletto che però deve nutrirsi degli altri cinque sensi. Per esempio, una scimmia entra in contatto con la realtà toccando, prendendo le cose, mangiandole in molti altri modi. L'uomo è l'unico essere la cui comunione con la realtà non può consistere soltanto nel prendere e apporare le cose, ma nel conoscerle attraverso quello che noi abbiamo chiamato intelletto. Bene, la conoscenza è fondamentale per realizzarci. Noi, dice Panikkar, andiamo realizzandoci man mano che conosciamo la realtà. Allora, in questo noi troviamo un punto fondamentale di Aleph, perché Aleph qual è la caratteristica? Conoscere il mondo interno, conoscere il mondo esterno simultaneamente, fare lo stesso processo, non dedicarsi alla psicologia e basta, non dedicarsi alla conoscenza esterna e basta, ma creare continuamente un ponte tra conoscenza interna e conoscenza esterna. Allora Panikkar dice, quando la scienza è diventata conoscenza oggettiva, in cui il soggetto e l'oggetto si sono separati, ha fatto progressi enormi, come diceva Bacone, è servita a dominare la realtà. Perché attraverso questo meccanismo e poi attraverso la quantificazione e il lavoro che è stata fatta, noi abbiamo la possibilità di intervenire sulla realtà e manipolarla. Ma la visione che la scienza ci dà è una visione del tutto parziale. Non è la visione che ci serve non è una visione saggia che ci serve orientarci nella vita. Così dice Panikkar che oggi noi sappiamo la distanza tra la Terra e Andromeda e quindi abbiamo una precisione nella comprensione della realtà esterna che una volta assolutamente ignoravamo. Ma nel momento in cui il cielo, che lo scienziato sta cercando, non ha più niente a che fare con la nostra vita, col nostro destino, allora questa conoscenza del cielo, fatta in questo modo, diventa una sorta di curiositas, come dicevano i medievali, no? O in termini di visione buddista, è una forma di pigrizia in senso buddista, nel senso che non è una conoscenza che porta alla fine della sofferenza in termini buddisti. Perché? Perché non è una conoscenza che ci dà una visione più profonda della realtà e del modo in cui noi ci dobbiamo, è importante che ci rapportiamo con la realtà, non ci fornisce un'etica, non ci fornisce una guida nella vita. Quando alla scienza chiediamo questo, chiediamo qualcosa che la scienza oggi non ci può proprio dare. Panikkar dice: oggi ci troviamo in un momento nuovo in cui si può constatare che nessuna civiltà, nessuna religione, nessun pensiero è autosufficiente. Da soli non ce la caviamo. E questo si vede chiarissimamente. Vale per i cristiani, per i non cristiani, per i marxisti, non marxisti, per gli occidentali e orientali. Oggi ciò di cui abbiamo bisogno è una mutua fecondazione. Ecco lì, questo è un altro principio di Aleph. Mutua fecondazione significa che cosa? Mettere in relazione, creare ponti tra discipline, tra modelli, tra visioni del mondo, sapendo che ogni visione, ogni modello, ogni disciplina si fonda su presupposti e questi presupposti non sono visti dalla disciplina stessa, no? Quindi diventano dei miti, qualcosa che non sappiamo nemmeno di credere, perché è al di fuori della nostra coscienza. Così come dice Panikkar, io non mi accorgo del mio accento genovese, te ne accorgi tu che non sei genovese, che non sei ligure. Io mi accorgo però magari del tuo accento milanese. Ecco, e lo stesso vale per i presupposti. È proprio grazie al dialogo, inteso in senso profondo, di scambio in amicizia e in fiducia e apertura, che io posso fornire a te la conoscenza dei tuoi presupposti, cioè farti vedere i tuoi presupposti, tu puoi farmi vedere i miei proprio attraverso il dialogo. E questo è ciò di cui oggi abbiamo maggiormente bisogno. Poi c'è un altro punto molto importante, secondo me, dove appunto dice che l'uomo contemporaneo sta subendo una crisi molto diversa da quella del periodo illuminista, del Rinascimento. Questa crisi ha un nome, è frammentazione. La frammentazione dell'uomo è scaturita, dice Panikkar, dalla frammentazione della conoscenza. Siamo sempre lì. La frammentazione della conoscenza ha portato a che cosa? La frammentazione di colui che conosce, cioè dell'uomo. Ci siamo specializzati così tanto che abbiamo ritenuto che la realtà si potesse spezzare in piccole particelle. Così Cartesio, no? Quando consigliava di fronte a una difficoltà di suddividere la realtà in parti sempre più piccole, fino a che queste fossero manipolabili. Se un sistema è troppo complesso, lo si deve dividere in sottosistemi che permettano di fare formule matematicamente calcolabili. Questa metodologia, che è valida per una certa scienza, però, ecco qua, uccide la realtà complessiva e rende impossibile la vera conoscenza. I sottosistemi che sono tenuti grazie a una nuova astrazione non possono dare il comportamento del sistema complessivo, anche se messi insieme. Ecco. Pensiamo solo alla medicina, sistema endocrino, sistema immunitario, sistema nervoso. Insomma, sono stati tutti tenuti separati e ognuno faceva i suoi studi. Ecco, oggi ci siamo trovati di fronte a limiti gravi di questa visione. E la medicina moderna sta appena adesso sfiorando il concetto di psicosomatica o somatopsichica, cioè non prendere in considerazione l'aspetto emozionale, l'aspetto dello stile di vita che riguarda le malattie. Insomma. Ok. Beh, bene, in Aleph questi concetti vengono espressi dal simbolo dell'Ubuntu, che è un simbolo molto semplice da capire. Ecco, nel momento che una parte dell'Ubuntu viene separata dall'altra, da prima era una qualità dell'essere, quindi un aspetto dell'essere, diventano inquinanti. Ecco, possiamo mettere qualunque cosa nell'Ubuntu, per esempio appunto soggetto e oggetto è la cosa più ovvia, oppure uomo Dio, ecco. Oggi ci siamo liberati del concetto di Dio, Dio è morto, ma il concetto di Dio come unità di tutte le cose non può morire perché parte dalla realtà. La realtà è interessere, ce lo dice la fisica quantistica ormai. Quindi nel momento che mettiamo da una parte uomo e dall'altra Dio, abbiamo creato una frattura tra uomo e Dio, condanniamo sia l'uomo che Dio a una misera fine. L'uomo che è separato da Dio è separato dalla realtà e dal cielo e quindi diventa preda dei desideri. Desideri cosa sono? Desidera, cioè staccarsi dalle stelle, staccarsi dal cielo, vuol dire non essere più parte di non sentirsi più parte di qualcosa più grande, quindi alimentare il proprio ego all'infinito, e l'uomo in questo modo si distrugge, autodistrugge se stesso, c'è la morte del prossimo, non soltanto la morte di Dio, come dice il bel libro di Luigi Zoia. Dall'altra, Dio, nel momento che viene separato dall'uomo, e lo è stato fatto questo, lo è stato fatto tante volte nella storia, viene messo in un cielo lontano, diventa trascendente, e siamo alle solite, diventa innanzitutto una figura antropomorfica, che Dio sa che cosa se ne voglia, e quindi del tutto staccata dalla realtà di tutti i giorni. Da qui il creare dogmi, gerarchie, il passo è molto breve. Il passaggio da una visione così infantile, puerile, a una visione profonda, mistica. Mistica cosa vuol dire? Mistica viene da mistero. È vero che mistica, mist, è anche la stessa radice, può dare origine alla parola mistificare, o anche mistificazione, mistero, misunderstanding, ma l'anima del mistero è ciò che non possiamo comprendere completamente. Perché? Perché è complesso, perché ne siamo parte. e quindi, anziché nutrirci di orgoglio, sviluppare umiltà. Umiltà è la forma più profonda di intelligenza, quella forma di intelligenza che ci consente di stare al nostro posto e non pretendere di essere coloro che creano tutto, cosa che non è vera. Ecco, noi oggi attraverso la scienza crediamo di poter modificare a nostro piacimento la Terra, ma non è mica così. Manipoliamo qualcosa, ma produciamo soprattutto danni. Otteniamo risultati a tempi brevi per generare catastrofi nei tempi lunghi, quindi non abbiamo una visione profonda. Quindi vediamo come il desiderio, lo staccarsi dagli astri, il perdere contatto con la terra, diventare orgogliosi, è parte della modernità, che è parte di una visione narcisistica della vita, della realtà, che noi non stiamo più al nostro posto, non stiamo più nella grande catena dell'essere come era previsto una volta. E quindi pensiamo di poter fare qualsiasi cosa. Ecco, noi invece abbiamo dei limiti, ecco, abbiamo dei limiti che sono molto evidenti anche, e la Terra non possiamo manipolarla oltre un certo livello perché la Terra ovviamente ha dei limiti ed è un organismo vivente che si sta ribellando alla nostra ingordigia. Beh, la conoscenza in effetti non c'è solo, ci lasciamo andare alla conoscenza oggettiva, esiste un'altra conoscenza che ci viene dall'Oriente, che è la conoscenza per l'identità. Entro talmente in empatia profonda con un'altra, no, con una pianta, con un animale, un minerale, da comprendere, entrare nel mondo di questo animale, essere, pianta, e vederlo dall'interno. Naturalmente questo richiede un lavoro molto lungo su di sé, un sapersi liberare dai propri bisogni, desideri, paure, quello che vuoi. Quindi non è affatto una cosa infantile, è una cosa che si ottiene con un lavoro profondissimo. È quello che ha fatto di più l'Oriente. In Occidente abbiamo sviluppato di più gli aspetti tecnologici. Oggi non è che potremo buttare all'aria gli aspetti tecnologici, ma dovremo creare appunto una mutua fecondazione tra Oriente e Occidente. O se vogliamo, tra l'emisfero gestaltico, olistico, e che è un emisfero mistico, così come un emisfero mistico capace di cogliere l'insieme, cioè l'emisfero destro dell'Oriente con l'emisfero sinistro occidentale. Le nostre scuole, purtroppo, l'emisfero destro viene distrutto, quando non vengono distrutti tutti e due, ecco, perché purtroppo oggi spesso anche l'emisfero sinistro non viene sviluppato, se non in minima parte. Questo è il compito che ci proponiamo come Aleph, ritornare al senso di unità. Ecco, quindi l'Ubuntu è il simbolo di Aleph. È proprio